Yesai 93.3 FM radio ada nyimi ne ka che ka sing lo bi e chen a ko nyo no chen ga afran de bi o mi o le o ma de ke ze mini 93.3 FM ga dan bi o no no non avete sbagliato frequenza cari ascoltatori, questa non è radio ada, è sempre radio 24. Io sono Giampaolo Musumeci e anche oggi nessun luogo è lontano. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. E dunque una buona giornata e benvenuti in redazione Valeria Coffaro e Fabio Cantadori con noi in regia. Che cos'è la radio in Africa? Quella che avete sentito era la voce di DJ Zizi, Radio Ada, sul fiume Volta. Eravamo in Ghana, una radio che dà voce alla minoranza Dangme, una radio di servizio per agricoltori, per contadini, e che vive grazie a un ONG canadese. È una delle tante voci, sono canti quelli che si levano. La radio in Africa è una voce, ma è anche un orecchio teso che ascolta la gente, ma è il mezzo di comunicazione per eccellenza. Guerriglieri, ribelli, profughi, generali, ragazzine, donne nei campi, in Africa tutti ascoltano la radio, molti hanno una radiolina appesa al collo. Perché la TV, quella, è un privilegio di pochi, i giornali poi costano tanto e allora la radio è la vera rivoluzione democratica del continente nero. Di questo parliamo oggi a Nessun Luogo Lontano. Per interagire con noi le coordinate sono SMS 349-238-6666, ci trovate la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano, oppure se volete porre domande o suggerimenti via mail nessunluogo@radio24.it. E do intanto il mio buongiorno a chi della rivoluzione via etere ne ha fatto una professione. Giorgio Lolli, buongiorno. Buongiorno. Allora, Giorgio Lolli da decenni costruisce radio in Africa, è un po' il punto di riferimento via etere del continente nero. Con te parleremo di questa avventura incredibile. Do il mio buongiorno anche a Francesca Del Rosso, buongiorno. Buongiorno a voi. Francesca, collega di RCD, l'agenzia giornalistica Rizzoli, e poi ancora a un altro collega, anche onorevole, che è Jean-Léonard Touadi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, tutti insieme a celebrare in qualche modo quello che è il mezzo radiofonico, che però in Africa assume un significato tutto nuovo. Giorgio, tutto iniziò, abbiamo parlato di rivoluzione, tutto iniziò con una ribellione, con un racconto meraviglioso che solo l'Africa sa regalare. Tutto nasce con un filo rotto, una radio che non funzionava, tu eri un giovane cameraman, raccontaci meglio. Sì, io ero all'epoca in Mali, a Bamako, e quindi c'era già sentore nell'aria, no, di questa rivoluzione, eccetera, e per cui io ero tornato allora dall'Eritrea, ero stato giù in Eritrea, e poi sono andato in Mali, arrivato là c'era già il movimento, diciamo, e quindi ho deciso, con un po' di materiale ramazzato, no, così, di fare la prima radio di nascosto, e quindi ho fatto questa radio a Bamusha, no, come diceva la gente. Sì. Questa è stata la prima radio lì in Mali. E questa radio però, insomma, tu davi voce a chi voleva, sì, poi far cadere, certo, Moussa Traoré. Infatti, dare la parola ai senza voce, perché in Africa non solo con le dittature, ma praticamente in tutti i paesi, allora, 20-30 anni fa, c'era una sola radio, era la radio generalmente governativa. Sì. E in Africa tutti ascoltavano per esempio la BBC, la Voce dell'America, tutte queste, ma nessuno aveva la sua voce, poteva parlare di fatto. E così ho iniziato a costruire tantissime piccole radio, perché funzionavano, non so, 50 chilometri, 100 chilometri, 10 chilometri, e via via, diciamo, si sono impossessati tout le monde, no? Si è impossessato delle, sì, radio, e finalmente possono parlare, dare la voce. Jean-Léonard Touadi, congolese, collega fra l'altro, l'ho già detto, insomma, perché la radio ha così tanto successo in Africa? Che cosa porta? Ma voi intanto immaginate paesi dove l'analfabetismo è molto alto e c'è una cultura ufficiale che è espressa in lingua francese, però che è la cultura dei governi nel passato, quindi delle dittature, e quindi la forma radiofonica, che è la forma del racconto orale, la forma dove la musica e il racconto e l'evocazione sposano perfettamente quella che è la cultura popolare di questi luoghi, E poi è un mezzo molto semplice che arriva a tutti. L'immagine più consueta che potete vedere è una persona con la sua bicicletta in piena foresta o in piena savana, con un piccolo transistor sgangherato. In alcuni villaggi è l'unica testimonianza della modernità che potete trovare, un vecchio, vecchissimo transistor, perché però funziona ancora. Sì. E grazie a questo gli africani hanno rotto il monopolio dell'informazione di Stato, hanno dato luogo a delle forme di espressioni popolari, artistiche, anche alle forme di mutuo e aiuto reciproco assai originali, ecco. Sì. La radio, quindi, che in qualche modo è lo specchio della grossa tradizione orale africana. Gli africani amano raccontare storie, ma amano anche ascoltare le storie. Francesca Del Rosso, che è una bianca, che a un certo punto va in Africa e da giornalista radiofonica bianca va a vedere la radio nera. Qual è la prima impressione, il primo impatto, la tecnica, la coloritura anche di certe apparecchiature che sono tenute insieme con nastro adesivo? Ci sono delle cose mirabili da questo punto di vista. Assolutamente sì, certo, noi ci aspettiamo di vedere le radio come ce le immaginiamo noi, quindi grandi vetrate, molte persone che ci lavorano dentro, insomma ci immaginiamo le nostre radio occidentali, e chiaramente io sono stata in Togo, ne ho viste alcune, che sono piccole, molto funzionali, perché poi appunto essendo una grande ricchezza per poi chi ce l'ha e chi la gestisce, vengono tenute molto bene. Radio XOLR, per esempio, quella di Lomé, dove lavora anche, che di cui è proprietario appunto Giorgio Lolli, sì, per esempio, è tenuta benissimo da un insieme di ragazzi giovani che però ci tengono, che la considerano una vera e propria ricchezza, e quindi anche se è piccola è gestita benissimo, in maniera molto attenta, e soprattutto, ecco, la cosa carina secondo me che si nota subito è che crea immediatamente una comunità, quindi sì, ci sono molti ragazzi che circolano intorno alla sede della radio, si è creato un fan club di ragazzi giovani che però hanno trovato un modo anche diverso per ritrovarsi e per creare una comunità dove poi discutono magari dei programmi, dei palinsesti, di quello che vorrebbero ascoltare, e quindi subito si crea un senso di comunione, no? di fronte ad un bene che è appunto la radio. Sì, un senso di appartenenza, un'unica voce in qualche modo che dà voce alle tante bocche che sono attorno a questa radio. Beh, che cosa fa da centro, da motore? Beh, è proprio il palinsesto, cioè molto spesso le radio africane sono radio di servizio, cioè danno informazioni precise e puntuali su quello che la comunità può o deve fare. Ascoltate su questo tema che cosa dice DJ Zizi, che Gigi Donelli ha intervistato nell'ambito del suo ciclo di reportage Passione Africana. Fra l'altro vi ricordo, le potete ascoltare in replica il sabato alle 19:30 oppure sul web. Ascoltiamo insieme la voce di DJ Zizi. This morning we broadcast the first program concerning health. La mattina mandiamo in onda un programma che riguarda la salute, volto ad educare le persone, in particolare coloro che sono affetti da patologie. I nostri giornalisti vanno per gli ospedali e intervistano i medici affinché possano dare consigli attraverso la radio su come comportarsi rispetto a varie malattie, per esempio la malaria, che è la malattia più diffusa in Ghana. Malaria. Poi c'è un altro programma in cui intervistiamo i contadini e i pescatori che vivono nella zona per farci raccontare come vanno gli affari e i problemi che affrontano. Quindi coloro che vogliono entrare nel business sanno cosa aspettarsi. Those who are now intending to go into that work or business, they will know how to go about it so that at the end they will get something. Allora, la voce dell'Africa oggi a Nessun Luogo Lontano, qui su Radio 24, grazie a Giorgio Lolli, che cosa fa? Lui va, gira per l'Africa e semina in qualche modo le radio. Giorgio, non solo tu costruisci radio, ma insegni agli africani a andare in voce, quindi a parlare davanti al microfono, ma soprattutto, e qua è il punto fondamentale, a fare la manutenzione, a riparare le radio, perché uno dei grandi problemi dell'Africa è che molto spesso quando si rompe un oggetto e non c'è nessuno che sappia ripararlo, quell'oggetto diventa tutt'altro, cioè una casa può diventare un fuoco, un trattore diventa una pentola, insomma succedono cose incredibili. Tu invece, insomma, insegni alla gente a fare la manutenzione. Sì, guarda, avevi ragione, cioè una piccola radio è un tesoro, no? A volte anche le cose più semplici per noi non si attardano a toccarlo, come dire, no? Per fare un esempio, è venuto un tecnico da Gao a Lomé, sono circa 3.000 chilometri per car, tanti car, tanti mezzi per me, aveva semplicemente un fusibile bruciato, il pilota, l'emettitore, quindi pensa, allora cosa ho pensato? Facciamo la scuola, di conseguenza ora ho una scuola e quindi insegno l'utilizzo, cioè non solo l'utilizzo, le piccole manutenzioni, sì, no? In maniera che si può evitare questi viaggi, perché il problema vero in Africa, ci sono due grandi, c'è una gran malattia che è la povertà e non si cura con le medicine e di conseguenza non hai neanche la professionalità, nulla. Quindi allora noi ho fatto questa scuola gratuita, chiunque può venire e lì si impara, insegniamo a utilizzare la radio, a riparare le antenne, a riparare i trasmettitori, montare le antenne tralicci e anche a fare la formazione per gli animatori. Sì. Quindi tutto questo viene fatto alla scuola. Oggi come oggi sono usciti circa un migliaio di tecnici che sono sparsi un po' per tutta l'Africa e fanno le piccole manutenzioni, sono in grado già di costruire delle radio. Molto spesso le radio poi africane, soprattutto quelle più piccole, vivono grazie ai contributi magari di ONG straniere, gli olandesi, i francesi, eccetera. Quanto costa, Giorgio, installare un impianto radiofonico, chiavi in mano, diciamo così? Un impianto radiofonico in Africa che faccia, non so, una cinquantina di chilometri, che copre una città bene, ci vuole tra i, non so, 15.000-20.000 euro, si può, compreso traliccio, manodopera, tutto. Poi molto spesso, come dire, i DJ o gli animatori, come si dice nei paesi francofoni africani, sì, sono dei volontari, degli appassionati che dedicano alcune ore giornalmente a questa passione. Francesca Del Rosso, il ruolo dell'ONG nel, come dire, poi mettere un po' di benzina, no, quotidianamente in queste fantastiche, meravigliose radio, quanto è cambiato nel corso degli anni? Perché ormai la radio si sta diffondendo, ma quest'onda è partita già da alcuni anni. Beh, assolutamente sì, sta cambiando parecchio, perché negli ultimi anni, almeno secondo quello che ho letto degli ultimi studi, soprattutto inglesi e americani, adesso finalmente anche europei, si è finalmente capito che la radio non deve solo essere un mezzo per diffondere delle informazioni, perché alla fine a che cosa serviva la radio alle ONG, a tutte le grandi organizzazioni internazionali? Era quella proprio di poter portare delle informazioni, quindi dall'alfabetizzazione alla conoscenza della lingua francese, ma anche alle semplici informazioni sanitarie, quindi la malattia, appunto sentivamo prima anche il DJ che parlava della malaria, ma si parla anche di HIV, insomma, certo, delle grosse emergenze sanitarie che ci sono in Africa. Quindi se prima la radio era semplicemente uno strumento per diffondere delle informazioni e dei messaggi che venivano decisi a monte, diciamo, sì, oggi si è iniziato a capire, soprattutto da Gran Bretagna e Stati Uniti, che il punto forse è invece quello di creare semplicemente la radio, non tanto per trasmettere informazioni o messaggi, ma come proprio strumento centrale per la coesione della popolazione, ma anche come mezzo di democrazia, perché più radio ci sono, più voci ci sono, più pluralità c'è, ma anche, se vogliamo, si crea gruppi di ascolto, gruppi di discussione, che sono poi quelli che danno coscienza, identità ai villaggi, ai piccoli villaggi che magari rimangono totalmente isolati, almeno a livello geografico. Invece, certo, attraverso la radio anche le persone più isolate lentamente iniziano a prendere coscienza di sé. questo ragionamento è di questi ultimi anni, tant'è vero che io ho parlato con alcuni coordinatori di progetti italiani in Africa e tutti mi hanno detto: stiamo andando in questa direzione, ancora oggi dobbiamo incentrare il nostro pensiero e il nostro progetto su magari motivazioni sanitarie, però le usiamo quasi come pretesto per poter creare una radio, sì. Visto che abbiamo appena sentito da Giorgio Lolli che i costi sono veramente irrisori, cioè 20.000 euro per una radio che dà così tanto poi a una popolazione, effettivamente è una cifra irrisoria rispetto alle cifre che possiamo immaginarci noi. Sì, sì. È anche problema. Vero che è anche vero che l'impatto di 20.000 euro magari su un villaggio, insomma, può essere una bella, ma poi Giorgio ci aprirà anche un po' lo scenario finanziario. Francesca, grazie. Nessun luogo è lontano. African Express Airways. E ancora Nessun luogo lontano, vanno in onda le mille voci, le mille radio dell'Africa. Francesca, scusami, ti ho interrotto, stavamo chiudendo il ragionamento sull'atteggiamento in qualche modo virtuoso dell'ONG, cioè della presenza occidentale in Africa, che impianta la radio, cioè dà il mezzo, lo strumento, e poi fa un passo indietro e lascia, come dire, alla crescita dello strumento stesso. Esatto, l'unico problema che sottolineano un po' tutti, sia in loco che le stesse organizzazioni sanitarie e le ONG, è che poi nel momento in cui il progetto finisce, quindi ha una scadenza, la radio dovrebbe iniziare a vivere da sola. Il problema è proprio questo, come diceva anche Lolli prima, se una delle grosse emergenze è proprio la povertà, questa poi non aiuta a tenere in vita le tante radio che vengono create, quindi spesso poi si vedono i direttori di queste piccole radio che vanno a elemosinare in giro, insomma, un po' di soldi o sì, comunque delle donazioni per poter andare avanti, perché chiaramente anche queste persone devono essere stipendiate e per quanto la manutenzione sia poca, anche quella, insomma, bisogna farla. Grazie allora Francesca Del Rosso per il tuo contributo, una buona giornata e un buon lavoro. Allora, la radio che ha così tanto successo in Africa, la radio è un mezzo potentissimo anche quando ha, come dire, un raggio d'azione limitato di pochi chilometri. La radio può abbattere regimi, ma può anche poi portare a tragedie, ma ne parliamo tra un attimo. Jean-Léonard Touadi, quando lei era in Congo, che radio ascoltava e quante ne ascoltava e quanto tempo? Beh, quando ero lì c'era la radio ufficiale, ovviamente, che era l'unica autorizzata. Mm. E però c'era un gioco interessante. Essendo la città di Brazzaville molto vicina alla città di Kinshasa, praticamente all'altra riva del fiume, e noi riuscivamo a sapere dalla radio del Congo di fronte le cose che erano proibite dalla nostra radio, perché era vietata addirittura, come dire, prendere le radio internazionali come Radio France Internazionale, sì. E quindi c'era questa censura, però, che veniva superata dal fatto che dall'altra parte c'era invece un regime che aveva interesse a mettere in difficoltà l'altro e quindi ci trasmetteva tutte le notizie che non potevamo sapere. E quindi, insomma, la radio è in qualche modo anche uno strumento politico, è una leva politica, anche strategica, piuttosto importante. Eh sì, l'Africa ne ha fatto i conti drammaticamente con la famigerata Radio delle Mille Colline, diventata famosa perché era la radio attraverso la quale le milizie interamue designavano le vittime, i villaggi da attaccare, le persone che si nascondevano. Sì. E quello è stato proprio il risvolto tragico, sì, di questo mezzo, che è servito poi come strumento del genocidio. Sì. Per inquadrare meglio, siamo nel 1994, siamo in Ruanda, l'interamo è la milizia Hutu. C'era questa radio, la Radio de Mille Collines, che non solo incitava quello che veniva detto l'Hutu Power, quindi incitava gli Hutu a prendere le armi contro la minoranza Tutsi, ma addirittura dava i quartieri dove si nascondevano non solo i Tutsi ma anche gli Hutu moderati, quindi dava le coordinate in qualche modo a queste milizie per andare a colpire e andare a uccidere. La radio come strumento politico, l'ONU ne è ben consapevole, e che cosa ha fatto in Kivu, Nord Kivu, una zona molto turbolenta, la zona dei Grandi Laghi? Ha fondato Radio Okapi, che è la radio delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo, e insomma ha una sua funzione. Ascoltiamo un breve estratto. Radio Okapi. Le journal Pascal Massirica. Okapi. Au cœur de l'actualité ce matin, 58 anciens combattants FDLR rapatriés hier jeudi à Kigali après plusieurs... E qui insomma si danno notizie di varia natura, soprattutto sulla sicurezza, perché è uno dei problemi che al momento affligge tremendamente il Congo. Voglio tornare a Giorgio Lolli perché abbiamo in qualche modo sfiorato il tema drammaticissimo della guerra in Africa, però tu Giorgio insomma ti sei infilato in zone che non erano esattamente tranquille, perché all'inizio della trasmissione hai accennato a quel viaggio in Eritrea dove da poi tutto è scaturito, no? Sì, certo. Raccontaci meglio, perché è interessante. Sì, io ho cominciato così, per caso. Dunque, mi trovavo in Eritrea e ero con delle altre persone, chiaramente, ero nel fronte di liberazione dell'Eritrea e a un certo punto c'erano questi guerriglieri che volevano contattare i palestinesi e avevano questa radio e non riuscivano, era semplicemente un cavo che era andato in corto, no? Quindi la massa toccava il polo caldo, messo a posto sono riusciti a parlare. Dopodiché mi hanno chiesto, faccia una radio per noi, quindi pochi mesi dopo sono ritornato lì e gli ho fatto la prima radio, la radio per il fronte di liberazione dell'Eritrea, e quindi lì facevano tutti i loro collegamenti, davano notizie su tutti i problemi che c'erano. Ecco, questa è stata la prima radio in assoluto che ho fatto in Africa. Fra l'altro tu per andare a fare queste missioni incredibili all'epoca ti muovevi ancora come giornalista, no? E non come fondatore di radio, ti fingevi medico, cioè dissimulavi. Sì, certo. E infatti le attrezzature le ho portate spacciandomi per medico con tanto di un falso patacchino della Croce Rossa, tutto falso come medico, e doveva essere un bisturi elettronico. L'antenna l'ho fatta con due rotami che avevo con me e quindi ho fatto questo. Il primo lavoro è stato questo, spacciandomi così. Poi a volte in tanti altri paesi ti spacci come missionario, sì, come quello che viene. Diciamo che in Africa conta la capacità camaleontica per andare, sì, a caccia di notizie, per cercare di raccontare questo continente incredibile. Abbiamo parlato della guerra, ci sono colleghi che trasmettono da radio, che quotidianamente sono bombardate dai colpi di mortaio. Allora vi porto per un istante a Mogadiscio. Telecom Somalia, the new vision of GSM in Somalia. System ka baaxadda weyn leh, waxaad ka helaysaa fariin qoraaleed gudaha iyo dibadda, isku xiridda telefoono fara badan oo mobilekaaga adigoo isticmaalaya. E queste sono le frequenze della Radio Nazionale Somala, che trasmette vicino a Villa Somalia, che è appunto zona del fronte. Chi ci segue dall'inizio di agosto insomma sa, abbiamo raccontato più volte la situazione di Mogadiscio, che è tremendamente delicata e gli insorgenti islamici sono proprio lì a un passo dalla Radio Nazionale Somala. Poi c'è un'altra radio che si chiama Radio Shabelle, che paga continuamente tutti i giorni con la morte dei suoi giornalisti e la volontà di informare su quello che sta accadendo in Somalia. Torno a Jean-Léonard Touadi per capire meglio, pur stando da qui, che cosa manca alle radio africane? Perché abbiamo capito, sono tantissime, si va dalla più piccola alla più grande, parlano veramente di tutto. Se proprio, come dire, dovessimo mettere il cappello, mettere un cilindro, mettere una ciliegina su questa torta meravigliosa, che cosa manca? Ma io penso che manca una delle cose, l'avete detta voi, è la formazione, una maggiore anche professionalizzazione di questi attori che permetta loro di diventare, oltre che volontari, anche veri e propri professionisti. E l'altra è un'autonomia finanziaria di cui queste radio hanno bisogno, anche per evitare che alla fine, appunto, come diceva qualcuno, questi direttori vadano a rivolgersi verso quelle stesse autorità che poi impongono la censura e rendono queste radio meno libere. Manca infine una maggiore aderenza e valorizzazione delle culture locali e seguire un po' l'evoluzione della società. Per esempio in Ruanda vedo che alcune radio sono utilizzate per il teatro popolare, che riproduce eventi traumatici di guerra e di genocidio e diventano un tessuto connettivo di riconciliazione tra etnie contrapposte. Ecco, finché faranno questo, queste radio avranno un grande futuro, perché proprio rispondono a un bisogno che esiste in quei territori. Grazie. Allora, Jean-Léonard Touadi, deputato e collega giornalista, grazie, una buona giornata. Grazie a voi. Allora, adesso io, Giorgio, accompagnami, perché vi porto in una zona di guerra, però vi porto... Voglio farvi vivere la stessa emozione che ho avuto io, perché sono entrato nella radio africana più piccola che abbia mai visto. Era proprio una capanna di un metro cubo, con un'antenna piazzata su un baobab e con un raggio di trasmissione di 2 chilometri. Siamo a Obo, in Repubblica Centrafricana, al confine con il Congo. La plupart de nos émissions se fait le plus souvent en patois ou langue nationale, sango. Et aujourd'hui, nous essayons de faire en langue française pour faire comprendre à nos visiteurs ce que nous faisons. Allora, la voce che sentite è quella di Riccardo, che è un giovane centrafricano, che dice: normalmente noi trasmettiamo in patois o in sango, che sono le lingue che si parlano in quella zona, ma per omaggiare la presenza dei giornalisti occidentali, eravamo io e alcuni colleghi, insomma, hanno detto: beh, parliamo in francese, così insomma tutti ci possiamo capire. Giorgio Lolli, sei in ripartenza per l'Africa, non te lo chiedo neanche. Domani alle 11. Ecco, dove vai? Torni in Togo. Torni in Togo. Dove in Togo, a Lomé, ci sono ben 28 stazioni radio nella città di Lomé. Tutte tue? L'hai fatte tutte? No, cioè, io ne ho fatte sì, una ventina. Ecco, suonava come una battuta, invece era vero. non sei stanco? Cioè, quante radio hai fatto fino adesso? Boh, più o meno, diciamo, circa 500 radio. 500 radio in 30 anni? Sì. E... Non sono poche. Che, no, sono tantissime. Ma, girando l'Africa in lungo e in largo, insomma, vivendo emozioni. In lungo e in largo, e ho cominciato, a proposito, per esempio, parlavi adesso della radio che fa 2 chilometri. Sì. Spesso, come avviene la radio, arriva un cliente, arriva una persona di un villaggio normalmente, poverissimi, senza niente, voglio una radio. Allora dici: vuoi una radio da posh o un trasmettitore? No, no, voglio far sentire in tutto il paese. Certo. Allora cosa si fa? Per esempio, questa gente non ha soldi, ne abbiamo parlato fino adesso, allora ma c'è la necessità di parlare, di ascoltare e soprattutto di parlare. Allora si dà per esempio un piccolissimo radiomicrofono, un trasmettitore, non so, da un watt, fai 1 chilometro, 2 chilometri, 5 chilometri massimo. Sì. Gli abitanti del villaggio, i suoi compagni, ascoltano la radio. Ah, è bello, finalmente possiamo parlare. Allora raccolgono i soldi per fare la radio. E quindi si incomincia con un traliccio, non più col baobab, col traliccio, un dipolo, due dipoli, un'antenna, insomma, e comincia a trasmettere. Quindi, come si dice, l'appetito viene mangiando, no? Allora voglio la radio, e quindi si fa la radio. Come trovi i soldi della radio? Ecco. Un po' in questa maniera. In altre maniere, bisogna dividere il tipo di radio, questa è una radio politica, quindi di qualche deputato, qualcuno che aspira a divenire deputato, oppure una radio religiosa, una radio di associazione, una radio di ONG. Se sono le ONG, vabbè, la pagano, una parte pagano della radio. Se sono privati, ad esempio gruppi di villaggio, si parte con l'antenna e il pilota, cioè quello che è il generatore di frequenza. Sì. Poi man mano che hanno i soldi possono aggiungere l'amplificatore e il gioco è fatto. Poi da lì un mixer un po' più grande, eccetera. Adesso per esempio facciamo tante radio per gli immigranti, cioè un giorno alla settimana puoi entrare in collegamento, telefono, non so, da Parigi, da Roma, da New York, quello che è, telefono alla radio e fanno la diretta radiofonica, danno le notizie, per esempio nel villaggio A, dall'Europa, dai le notizie, c'hai i tuoi parenti, parli con... l'animatore, parli anche con un altro cliente, un altro cittadino, un altro uditore, no? Sì. E quindi sono in contatto tra l'Europa e l'Africa e tutta la gente del villaggio. Sono cose molto interessanti. E questa, no, è una cosa meravigliosa, insomma, è la magia. Nessun luogo è lontano. Sono punta e cliente cliente. E allora ci stiamo divertendo a girare la manopola, andare a caccia delle 1000 frequenze del continente nero, ancora con Giorgio Lolli, che in qualche modo è l'alfiere della radio in Africa. Giorgio, la TV ucciderà mai la radio? No, è impossibile. Guarda, adesso, come è successo in Italia, chi ha una stazione radio dopo vuol fare la stazione TV, ma la televisione non te la porti presso, soprattutto dove non c'è luce, dove non c'è energia elettrica. Mentre la radio, come in Italia, non si vive senza radio. La radio, ti dico una cosa, guarda, l'ho già detto a tante altre persone. Una volta in un villaggio ho costruito una stazione radio, era un villaggio Dogon, quindi in Mali, nord del Mali. Sì. Ho costruito questa radio, una volta in questa città, questo grosso paese, non aveva nessuna strada asfaltata, una sola strada, un pozzo, e una farmacia. È venuto da me il sindaco del villaggio e mi ha detto: adesso abbiamo tutto, cioè la radio, adesso abbiamo tutto. Capisci cosa vuol dire? Abbiamo sì, tutto, che è necessaria quanto l'acqua e il pane. È necessaria la radio, è tutto in questi posti, perché vedi, ho visto veramente cambiare il paese. Tu pensa, per esempio, ti dico, in Togo non c'era nessuna radio, c'era la radio di Stato, o in Benin così. Quando abbiamo cominciato a fare le radio ci sono state mille difficoltà, mille controlli, eccetera. Oggi il governo togolese non solo ci ha dato del materiale, tanti, per esempio, ci hanno dato, non so, ogni radio un ordinatore, monitor, qualche microfono, una stampante. In Benin, per esempio, pagano le riparazioni, il governo paga le riparazioni delle radio, piccole cifre, però le dà. Però insomma è un circuito virtuoso che si sta mettendo in moto. Allora grazie Giorgio Lolli per essere stato con noi, non mi resta che augurarti buon viaggio e buona radio. Grazie, grazie, ciao. Allora sì, gentili ascoltatori, ci siamo concessi una puntata autocelebrativa sulla radio. Abbiamo parlato della magia della radio nel continente nero, di queste mille radio che parlano veramente di tutto, che danno voce a tutti, in qualche modo forse la vera rivoluzione democratica del continente. Ma adesso voltiamo decisamente pagina, perché vi porto in Marocco, anzi in Spagna. Andiamo a Ceuta e Melilla, le due città autonome in territorio marocchino, due città autonome spagnole. Perché? Perché se ci avete seguito negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato la querelle, il braccio di ferro che è in corso fra Mohamed IV e Zapatero, fra il governo di Casablanca e di Rabat e Madrid. E allora chiediamo lumi a Michele Calcaterra, Soli 24 Ore da Madrid. Buongiorno Michele. Buongiorno. Che cosa sta succedendo? No, la situazione rimane abbastanza tesa a Melilla, nonostante l'embargo e il blocco delle merci sia stato elevato, sbloccato, insomma, e ci sono queste schermaglie ricorrenti. È chiaro che il problema è sulla sovranità di queste due autonomie. La Spagna non molla, perché si tratta di due città strategiche anche per il controllo dello stretto. Dall'altra parte il Marocco dice che non può rinunciare a due territori che considera marocchini e quindi senz'altro vuole rientrarne in possesso. Ci sono sì, naturalmente, in tutte queste storie, problemi di immigrazione, problemi di interessi economici, problemi di terrorismo, problemi politici interni e di politica internazionale. Interni perché il Partito Socialista Zapatero, il governo spagnolo, per il momento ha tentato di buttare acqua sul fuoco delle polemiche, mentre dall'altra parte i popolari e Aznar, l'ex presidente, si è recato a controllare Melilla e quindi ha scatenato un putiferio politico sì, in Spagna. Fra l'altro Aznar si è recato a Melilla ma senza avvisare il governo, per cui insomma ha creato anche un certo imbarazzo. E dunque hai citato sì, due punti fondamentali, mi sembra. Uno è il problema immigrazione, l'abbiamo accennato nei giorni scorsi. Ceuta e Melilla sono due enclave, due pezzettini di Europa incastonati in Africa, per cui spesso sono presi d'assalto dai migranti. L'altro è il problema del terrorismo, perché le frontiere di Ceuta e Melilla sono piuttosto permeabili. Non so quante decine di migliaia di lavoratori marocchini ogni giorno transitino tra Ceuta e Melilla, cioè entrano nelle due enclave, lavorano e alla sera riescono. Beh, c'è un allarme da parte dell'intelligence internazionale proprio sul possibile ingresso di membri di Al-Qaeda attraverso queste due così permeabili frontiere. Il punto che ci si chiede è il Marocco che cosa sta mettendo sul piatto della bilancia? Cioè, perché sta facendo montare questa perché tiene il braccio di ferro così duro? Che cosa vuole in realtà? Quando non avrà mai Ceuta e Melilla? Questo sembra abbastanza evidente, no? Sì, cosa mette sul piatto della bilancia? Va, sicuramente mette aiuti in termini economici, soprattutto economici, aiuti anche di supporto al governo e quindi al regno per la stabilità del paese, perché anche all'interno del Marocco, insomma, ci sono spinte progressiste accanto a spinte molto conservatrici. Il re non è che goda di buonissima stampa e di grossa popolarità, per cui si chiede così che ci siano dei rapporti un po' più saldi e che la Spagna sia veramente di supporto al regno marocchino. Ma poi ci sono molti interessi economici, dicevamo prima l'immigrazione che è stata regolata, la Spagna si è impegnata a creare posti di lavoro in Marocco, così come a importare, tra virgolette, manodopera specializzata dal governo, dal regno di Rabat, sì. E così come ci sono grossissimi interessi per quel che riguarda il passaggio dello stretto e quindi le merci. Stanno costruendo i marocchini un nuovo porto di enormi dimensioni che è già stato, diciamo, tra virgolette, affittato, appaltato a coreani e a cinesi, e quindi stanno mettendo in pericolo l'economia della costa spagnola. E quindi, insomma, un braccio di ferro che ha motivazioni profondamente economiche. Grazie Michele Calcaterra per la tua corrispondenza. E voltiamo decisamente e velocemente pagina perché ieri all'Argan Ulster, secondo te, nord dell'Irlanda, sono riapparse le camionette dei militari britannici, cosa che non accadeva da 3 anni. La polizia nordirlandese, in seguito a ripetuti scontri, ve ne abbiamo dato notizie nei giorni scorsi, ha detto: noi non ce la facciamo a tenere l'ordine pubblico. Allora si sono viste le camionette verdi dei militari britannici. Silvia Calamati, buongiorno. Salve a tutti. Allora, Silvia Calamati, esperta di questione nordirlandese, di recente pubblicazione il tuo diario di Bobby Sands, come leggi questo segnale? Beh, sicuramente va letto nella situazione più ampia di grande instabilità dovuta agli attacchi che sono stati lanciati in modo abbastanza continuo dai gruppi paramilitari contrari ai processi di pace. E va detto però che è vero che dal 2005 i soldati in Irlanda del Nord sono stati ritirati, però è anche vero che ci sono ancora soldati dentro le caserme dell'Irlanda del Nord e la cooperazione tra soldati e polizia è sempre stata continua. I soldati che possono essere d'appoggio alla polizia in questo periodo in molti casi servono per quanto riguarda le loro capacità tecniche per l'identificazione di ordigni che devono essere diciamo chiarissimo disinnescati. Esatto. Tra l'altro, proprio 3 giorni fa all'Argan è esploso un ordigno messo in un cestino della spazzatura, ha ferito 3 bambini, cosa che insomma ha creato notevole sgomento. Quindi Silvia, sinteticamente, insomma, tu dici è una presenza lì, ma non dobbiamo aspettarci il ritorno dei militari britannici no, per le strade. No, perché i principali partiti unionisti, almeno l'Ulster Unionist Party, ha escluso la presenza per le strade dei soldati dell'Irlanda del Nord, sicuramente a breve, almeno questo è quanto è stato detto anche in campagna elettorale prima delle elezioni che ci sono state a maggio. Insomma, i partiti unionisti sono poi quelli al governo. Grazie Silvia Calamati per questa tua informazione precisa. Grazie a voi. Buona giornata. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E allora abbiamo il tempo per dare un'occhiata a quello che sta accadendo. Ieri ve l'avevamo detto brevemente, andiamo in Kosovo. Perché? perché Pristina è pronta a usare la forza e a reagire con le armi nel caso che il nord del Kosovo, a maggioranza serba, proclami l'indipendenza o decida di unirsi alla Serbia stessa. Lo ha detto a chiare lettere quest'oggi il ministro dell'interno kosovaro Bajram Rexepi, secondo il quale il governo di Pristina intende difendere con ogni mezzo l'integrità territoriale del paese. Di sicuro, chiunque dovesse appoggiare l'eventuale indipendenza del nord verrà arrestato, ha detto Rexepi in un'intervista oggi al quotidiano serbo Danas. A scatenare questa dichiarazione è stato la notizia di ieri, che appunto avevamo riportato anche noi, secondo cui una non meglio precisa associazione delle municipalità della provincia autonoma del Kosovo, un'organizzazione finora sconosciuta, avrebbe approvato una dichiarazione di indipendenza. E poi in Sudafrica, dove siamo al terzo giorno dello sciopero generale nel settore pubblico. Ieri violenti scontri hanno visto a Johannesburg i manifestanti opposti alla polizia in assetto antisommossa. La polizia ha usato l'idrante, ha usato proiettili di plastica, i cosiddetti plastic gun. Oggi i soldati proteggono gli ospedali. Il punto qual è? L'ago della bilancia qual è? Che gli scioperanti chiedono un aumento dei salari pari all'8.6%, capeggiati dai sindacati, mentre il governo parrebbe disposto a concedere un semplice 7%. E andiamo invece in Iran. Oggi l'Iran ha sperimentato il lancio di un missile terra-terra del tipo Qiyam, secondo quanto annunciato il ministro della difesa Ahmad Vahidi, senza precisare però quando è stata fatta questa prova di lancio. La TV di Stato da parte sua ha celebrato questo evento mostrando le immagini del lancio del missile con la scritta Yamadi sul dorso, a partire da una zona desertica del paese. Abbiamo parlato, come dire, del prosieguo del programma missilistico dell'Iran a fianco a quello nucleare. E allora non mi resta, questa era l'ultima notizia, non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi. Un saluto e un ringraziamento anche a Valeria Coffaro, Fabio Cantadori in regia. Noi ci risentiamo lunedì, ma ricordate che nessun luogo è lontano.